Da molto tempo, pensavo, non avevo più rivisto nessuna delle persone di cui ci si è occupati in questo libro. Solo nel 1914, durante i 2 mesi che avevo passati a Parigi, avevo intravisto il signor di Charlus e incontrato Bloch e Saint-Leu. Solo quest'ultimo 2 volte. La seconda era stata quella in cui più s'era mostrato se stesso, cancellando tutte le spiacevoli impressioni di insincerità che aveva suscitate in me durante il soggiorno a Tansonville, di cui ho appena riferito, e dandomi modo di ritrovare in lui tutte le belle qualità d'un tempo. La prima volta che l'avevo visto dopo la dichiarazione di guerra, cioè all'inizio della settimana successiva, mentre Bloch ostentava il più acceso sciovinismo, Saint-Leu, quando Bloch ci aveva lasciati, non aveva risparmiato l'ironia contro se stesso per non aver ripreso servizio, e la violenza del suo tono mi aveva quasi sconvolto. Saint-Leu tornava da Balbec. Seppi più tardi, indirettamente, che aveva fatto vani tentativi presso il direttore del ristorante. Quest'ultimo doveva la sua posizione a quanto aveva ereditato dal signor Nissim Bernard. Non era altri, in effetti, che il giovane cameriere di cui lo zio di Bloch era stato protettore. Ma la ricchezza, per lui, era stata foriera di virtù. E invano, dunque, Saint-Leu aveva tentato di sedurlo. È così che, per compensazione, mentre i giovani virtuosi si abbandonano con gli anni alle passioni di cui hanno finalmente preso coscienza, adolescenti facili diventano uomini di buoni principi, contro i quali qualche Charlus ha corso sulla parola di vecchi racconti, ma troppo tardi, va spiacevolmente ad urtare. Tutto è questione di cronologia. «No!» esclamò Robert con impetuosa gaiezza. «Chiunque non si batta, qualsiasi ragione ne dia, è perché non ha voglia di farsi ammazzare, è per paura!» E con lo stesso gesto d'affermazione, ma ancora più energico, con cui aveva sottolineato la paura degli altri, aggiunse: «E io, se non riprendo servizio, è per paura. Ecco, nient'altro che paura!» Avevo già notato in diverse persone che affettare sentimenti lodevoli non è il solo sistema per coprirne di riprovevoli. Un sistema più nuovo è esibire questi ultimi in modo che, quantomeno, non si dà l'impressione di volerli nascondere. In Saint-Leu, inoltre, questa tendenza era rafforzata dalla sua abitudine quando commetteva un'indiscrezione o faceva una gaffe che si sarebbe potuto rimproverargli, di proclamarle dicendo che l'aveva fatto apposta. Abitudine che credo avesse presa da qualche professore della scuola di guerra con cui era stato in intimità e di cui parlava con grande ammirazione. Non ebbi dunque alcuna difficoltà a interpretare quell'uscita come la ratificazione verbale di un sentimento che Saint-Leu preferiva proclamare in quanto aveva dettato il suo comportamento e la sua astensione dalla guerra appena iniziata. «Hai sentito dire», mi chiese lasciandomi, «che la zia Oriana starebbe per divorziare? Personalmente non ne so proprio nulla. Di tanto in tanto lo si dice e l'ho sentito annunciare tante di quelle volte che prima di crederci aspetto che sia successo. Aggiungo che sarebbe del tutto comprensibile. Lo zio è un uomo incantevole, non soltanto in società, ma anche con gli amici, con i parenti, e in un certo senso ha anche molto più cuore della zia, che è una santa, ma glielo fa terribilmente pesare. Solo che è un marito spaventoso. Non ha mai smesso di tradire sua moglie, di insultarla, di brutalizzarla, di lasciarla senza soldi. Che lei lo lasciasse sarebbe talmente naturale da far credere che sia vero, ma anche che non lo sia, perché può spiegare che lo si pensi e lo si dica. E poi, dal momento che l'ha sopportato così a lungo, con tutto questo, lo so bene, ci sono tante cose che vengono annunciate a torto, che vengono smentite e che poi, più tardi, diventano vere. Questo mi fece venire in mente di chiedergli se si fosse mai parlato d'un suo matrimonio con Mademoiselle de Guermont. Robert ebbe un sussulto e mi assicurò di no. Era solo una di quelle dicerie che nascono di tanto in tanto, non si sa per quale ragione, in società e allo stesso modo svaniscono, e la cui infondatezza non rende più cauto chi ci ha creduto. Non appena nasce una diceria nuova di fidanzamento, di divorzio, oppure una diceria politica, nel prestarvi fede e nel diffonderla. Non erano passate 48 ore che certi fatti, di cui venni a conoscenza, mi dimostrarono quanto mi fossi sbagliato nell'interpretare le parole di Robert. Tutti quelli che non sono al fronte è perché hanno paura. Saint-Lô l'aveva detto per brillare nella conversazione, per fare dell'originalità psicologica, mentre ancora non sapeva con certezza se la sua domanda sarebbe stata accettata. Ma nel frattempo faceva di tutto perché lo fosse, rivelandosi in questo meno originale, nel senso che egli credeva si dovesse dare a questa parola, ma più profondamente francese, di Saint-André du Champ, più conforme a quanto ci fosse di meglio in quel momento tra i francesi di Saint-André du Champ, signori, borghesi e servi rispettosi dei signori, oppure in rivolta contro i signori, due suddivisioni ugualmente francesi della stessa famiglia, il sottotipo Françoise e il sottotipo Morel, da cui due frecce si dipartivano per riunirsi nuovamente in un'unica direzione, quella della frontiera. Bloch era stato deliziato da quella confessione di viltà d'un nazionalista, che peraltro lo era così poco. E quando Saint-Lô gli aveva chiesto se lui stesso dovesse partire, aveva assunto un'espressione da gran sacerdote per rispondere: miope. Ma Bloch aveva cambiato radicalmente opinione sulla guerra quando, alcuni giorni dopo, venne a trovarmi in preda al panico. Sebbene miope, era stato dichiarato abile. Lo stavo riaccompagnando a casa quando incontrammo Saint-Lô, che aveva appuntamento per essere presentato a un colonnello del Ministero della Guerra, con un ex ufficiale. «Il signor di Cambremer», mi disse. «Ah, ma è vero, ti sto parlando di una vecchia conoscenza. Lo conosci bene quanto me, Cancan?» Gli risposi che sì, lo conoscevo, e anche sua moglie, e che li apprezzavo solo a metà. Ma ero talmente abituato, da quando li avevo visti la prima volta, a considerare lei come una donna nonostante tutto notevole, che conosceva a fondo Schopenhauer e aveva insomma accesso a un giro intellettuale del tutto precluso al suo rozzo marito, che rimasi a tutta prima sbalordito, sentendo Saint-Lô replicare: «La moglie è una stupida, lo ammetto, ma lui è un uomo eccellente, che aveva delle qualità ed è ancora molto gradevole». Per stupidità della moglie, Saint-Lô intendeva certamente il suo desiderio sfrenato di frequentare il gran mondo, cosa che il gran mondo giudica con la massima severità. Per qualità del marito, certamente alcune di quelle che gli riconosceva sua madre quando lo giudicava il migliore della famiglia. Lui, almeno, non correva dietro alle duchesse, ma questa, a dire il vero, è un'intelligenza che differisce da quella propria dei pensatori quanto l'intelligenza d'aver saputo far fortuna che il pubblico attribuisce a certi uomini ricchi. Ma le parole di Saint-Lô non mi dispiacevano, ricordandomi che la pretenziosità confina con l'idiozia e la semplicità ha un sapore un po' nascosto, ma gradevole. Non avevo avuto occasione, è vero, di gustare quella del signor di Cambremer. Ma proprio per questo un essere è tanti esseri diversi a seconda delle persone che lo giudicano, anche a prescindere dalle diversità di giudizio. Io del signor di Cambremer non avevo conosciuto che la scorza e il suo sapore, che altri m'attestarono, m'era ignoto. Bloch ci lasciò davanti alla porta di casa sua, traboccante d'amarezza contro Saint-Lô, dicendogli che loro altri, bei ragazzi gallonati, con il loro pavoneggiarsi negli stati maggiori, non rischiavano nulla, e che lui soldato semplice di seconda classe, non aveva nessuna voglia di lasciarci la ghirba per Guglielmo. «Sembra che sia gravemente malato, l'imperatore Guglielmo», rispose Saint-Lô. Bloch, che come tutte le persone molto attente alla borsa, accoglieva con particolare facilità le notizie sensazionali, aggiunse: «Anzi, corre voce insistente che sia morto». In borsa, ogni sovrano malato, sia Edoardo VII o Guglielmo II, è bell'e morto. Ogni città che sta per essere presa d'assedio è già caduta. «Lo si tiene nascosto», aggiunse Bloch, «solo per non deprimere il morale dei crocchi. Ma è morto la notte scorsa. Mio padre lo sa da una fonte di primissimo ordine». Le fonti di primissimo ordine erano le sole di cui Bloch padre teneva conto, sia che potendo comunicare, grazie alle sue alte relazioni con loro, ne ricevesse la notizia ancora segreta che il credito estero stava per salire, sia che ne apprendesse che le De Beers stavano per scendere. Peraltro, se in quel preciso momento si verificava un rialzo delle De Beers o un'ondata di vendite sull'estero, se il mercato delle prime era stabile e vivace e quello del secondo incerto, debole, tanto da render consigliabile di stare alla finestra, la fonte di prim'ordine non cessava per questo d'essere di prim'ordine. Così Bloch ci annunciò la morte del Kaiser in tono di importanza e di mistero, ma anche di rabbia. Più di tutto lo esasperava che Robert dicesse «l'imperatore Guglielmo». Credo che sotto la lama della ghigliottina Saint-Lô e il signor di Guermantes non avrebbero potuto dire altrimenti. Se due uomini di mondo si ritrovassero soli sopravvissuti su un'isola deserta dove non dovrebbero dar prova di buone maniere agli occhi di nessuno, si riconoscerebbero da queste tracce d'educazione, così come due latinisti citerebbero correttamente Virgilio. Nemmeno torturato dai tedeschi, Saint-Lô avrebbe mai potuto dire altro che l'imperatore Guglielmo. E questo savoir-vivre è, nonostante tutto, indizio di gravi impedimenti per l'intelletto. Chi non sa liberarsene rimane un uomo di mondo. Ciò non toglie che questa elegante mediocrità sia deliziosa, soprattutto per quanto di generosità nascosta e di eroismo inespresso li si accompagna, a petto alla volgarità di Bloch, al tempo stesso codardo e fanfarone, che gridava a Saint-Lô: «Non potresti dire Guglielmo e basta. Il fatto è che hai fifa. Cominci già a strisciare davanti a lui. Ah, ci ritroveremo proprio con dei bei soldati alla frontiera, capaci solo di leccare gli stivali ai crocchi. I vostri gradi vi servono giusto per pavoneggiarvi alle sfilate, punto e basta». «Quel povero Bloch vuole sempre solo che io sfili», mi disse Saint-Lô sorridendo quando lasciamo il nostro compagno. E sentii che non era davvero questo il desiderio di Robert, sebbene allora non mi rendessi esattamente conto delle sue intenzioni, come in seguito, quando, restando inattiva la cavalleria, ottenne di servire come ufficiale di fanteria, poi dei cacciatori a piedi, e infine quando successe ciò che si vedrà più avanti. Ma del patriottismo di Robert Bloch non si rendeva conto, per la semplice ragione che Robert evitava di esprimerlo. Se Bloch ci aveva fatto professioni di fede ferocemente antimilitariste dopo essere stato dichiarato abile in precedenza, quando si credeva riformato per miopia, si era mostrato un acceso sciovinista. Ma dichiarazioni siffatte, Saint-Lô sarebbe stato incapace di farle, in primo luogo per una sorta di delicatezza morale che impedisce di esprimere i sentimenti troppo profondi e che appaiono affatto naturali. Mia madre, a suo tempo, non solo non avrebbe esitato un secondo a morire per la nonna, ma avrebbe orribilmente sofferto se le avessero impedito di farlo. Eppure mi riesce impossibile immaginare retrospettivamente sulla sua bocca una frase del tipo «darei la vita per mia madre». Altrettanto tacito era, nel suo amore per la Francia, Robert, che in quel momento trovavo molto più Saint-Louis, per quanto mi era possibile raffigurarmi suo padre, che non Germain.